I personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Anche quelli che non lo confesseranno mai sono assolutamente sensibili al tema quanto sarebbe bello rimanere eternamente giovani, non invecchiare, mantenere la propria bellezza o quantomeno il proprio decoro giovanile senza essere toccati dal tempo, anzi in realtà ancora meglio, cioè avere la testa di uno di 40, 50 e oltre e avere sempre il corpo dei 20, questo sarebbe veramente il sogno di tutti. E fin dalla notte dei tempi l'essere umano ha cercato comunque di preservare la giovinezza con i rimedi più disparati, scienza, cosmetica, chirurgia, qualsiasi cosa, e seni finti, parrucchini, cioè qualsiasi cosa per cercare di essere giovani, l'uomo ha cercato di metterla in pratica. Il tempo passa e nulla è più mortale del desiderio di immortalità. L'uomo si è inventato delle soluzioni a questa paura di invecchiare, o quantomeno ci ha provato. Pensate alla fonte dell'eterna giovinezza, la sorgente leggendaria che appare nella mitologia medievale e in quella classica di molte culture. Si riteneva fosse nel giardino dell'Eden. Con la scoperta dell'America si pensò si trovasse in Florida, la cercò disperatamente l'esploratore spagnolo Juan Ponce de León, amico di Colombo, non la trovò ovviamente. Pensate alla Panacea, la figura mitologica greca che dava l'eterna giovinezza con le piante, alla pietra filosofale di Nicolas Flamel, capace di risanare la corruzione della materia, l'elisir di lunga vita, la pozione in grado di allontanare la morte. Oggi noi raccontiamo la storia di un giovane uomo bellissimo e molto affascinante che ha desiderato ardentemente conservare il meraviglioso dono della giovinezza e ha trovato un modo assolutamente incredibile per non invecchiare mai. Ma naturalmente c'è un rovescio della medaglia che è terrificante. Il nostro protagonista di oggi è il giovane dandy inglese Dorian Gray. Sì, era certo singolarmente bello, con quelle labbra rosse finemente disegnate, i chiari occhi azzurri e i capelli biondi ricciuti. V'era qualcosa nel suo volto che ispirava immediata fiducia. Tutto il candore della gioventù, e della gioventù tutta l'appassionata purezza. Si sentiva che il mondo non l'aveva corrotto. Dorian Gray è l'emblema di tutto quello che la società della sua epoca adora, perché siamo nell'Inghilterra vittoriana del finire dell'Ottocento. Il mondo sta volgendo uno sguardo fiducioso al nuovo secolo, a tutte le sue scommesse e quindi a tutte le sue promesse, affascinato dalle strabilianti scoperte scientifiche, l'elettricità per esempio, e poi dall'arte che è nel suo splendore più fulgido, e poi la letteratura che pone l'uomo come centro di attenzione. Dorian Gray rispecchia tutto questo quando fa la sua comparsa nei salotti della Londra che conta 17 anni. È incredibilmente bello, è ricco, è l'erede di un'immensa fortuna. Le premesse per un futuro denso di successi e di piaceri ci sono tutte. Non si sa molto di Dorian Gray, la sua è una nobile casata britannica, i Kelso, che lo hanno sempre protetto perché ha alle spalle una storia poco chiara. La madre, Lady Margaret Devereux, una donna di rara bellezza, fa girare la testa a tutti gli uomini del suo entourage, poi scappa via con un giovanotto senza un soldo, il subalterno di un reggimento di fanteria. Il ragazzo viene ucciso in duello pochi mesi dopo il matrimonio, e attorno a questa faccenda fiorisce una brutta storia, perché pare che Lord Kelso, padre di Margaret, abbia ingaggiato un avventuriero, un mascalzone belga, pagandolo profumatamente per insultare suo genero in pubblico. Così il giovanotto viene infilzato e tutto si risolve come si risolvevano le cose in quell'epoca. Lady Margaret, vedova inconsolabile, torna a casa dal padre, ma torna a casa incinta. Le male lingue raccontano che la figlia non rivolga più la parola al padre. L'anno dopo muore anche lei per il dolore, ma lascia un figlio, Dorian, bello come la madre e ricco, terribilmente ricco come il nonno. La bellezza fuori dal comune di Dorian Gray attira inevitabilmente i grandi artisti dell'epoca. Siamo nel pieno periodo di ritratti e i nobili hanno l'abitudine di farsi immortalare sulla tela. Il famoso pittore Basil Hallward conosce Dorian Gray e ha un ricevimento e gli chiede di fargli da modello. Quando i nostri occhi si incontrarono, mi accorsi che impallidivo. Mi aggredì una strana sensazione di terrore. Ebbi la certezza di trovarmi di fronte ad un uomo il cui semplice aspetto poteva rapire il mio intero essere, la mia anima, la mia arte. Io sono uno indipendente per natura. Sono sempre stato padrone di me stesso, perlomeno finché non ho incontrato Dorian Gray. Beh, qui c'è proprio l'amore. Basil Hallward è un grande artista, è in cerca di ispirazione, vuole realizzare il suo capolavoro più grande, che sarà il ritratto di Dorian Gray. Ha la sensazione che da quel dipinto trarrà qualcosa di straordinario, ma anche qualcosa di terrificante, qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la sua stessa esistenza. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il raffinato e snob Lord Henry Wotton, il tipico dandy londinese, emblema di un'aristocrazia decadente e senza moralità, va a trovare l'amico Basil Hallward nel suo studio di pittore. Al centro della stanza campeggia in tutta la sua imponenza il ritratto a figura intera del giovane più bello che abbia mai visto, Lord Henry. È la tua opera migliore, Basil, la più bella cosa che tu abbia mai fatto, gli dice, e ovviamente gli chiede che sia il modello. Il pittore è restio, non vuole dirglielo. Ascoltate come lo giudica Lord Wotton. Questo tuo misterioso amico, di cui non mi vuoi dire il nome, ma il cui ritratto è per me pieno di fascino, non ha mai pensato. Ne sono assolutamente sicuro. È una creatura bellissima e vacua che dovremmo sempre avere vicino d'inverno, quando non vi sono fiori da guardare, ed estate quando abbiamo bisogno di qualche cosa che ci rinfreschi lo spirito. Si sta parlando ovviamente di lui, di Dorian Gray, che in quel momento ha solo 17 anni, è appena uscito dalla fanciullezza, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dorato dei salotti londinesi. Lo abbiamo ripetuto più volte, lui è un ragazzo di rara bellezza, anche questa aura di mistero che lo circonda. Il suo defunto nonno non frequentava il bel mondo londinese, lo ha tenuto protetto, lo ha fatto studiare lontano, insomma nessuno lo conosce. Tutti però sanno che è incredibilmente ricco. Al raggiungimento della maggiore età disporrà di un patrimonio da far girare la testa, e questo lo rende ancora più interessante. Per questo mondo aristocratico londinese disincantato, annoiato, quel ragazzo rappresenta una novità piacevole. Le dame se lo accaparrano, se lo contendono per farsi aiutare nelle loro opere caritatevoli per il momento. Lord Henry, e lui è impaziente di conoscere Dorian Gray, ne ha sentito parlare da una sua zia, così quando finalmente scopre che il giovane ritratto dal suo amico Basil è proprio lui, si sistema nello studio del pittore in attesa che il giovane faccia la sua comparsa. Dorian Gray non ama fare il modello, si annoia, ma con Lord Wotton le cose cambiano completamente. È del tutto diverso da Basil, che quando dipinge resta nel mutismo più assoluto. Lord Henry è un fine parlatore, un affabulatore, è divertentissimo, ha delle teorie che affascinano fin da subito il giovanissimo Dorian. Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi. Oggi gli uomini hanno paura di sé, hanno dimenticato il più alto di tutti i doveri, quello verso se stessi. Sono caritatevoli, nutrono chi ha fame e vestono gli ignudi, ma la loro anima muore di inedia e di freddo. Il terrore della società, che è alla base della morale, e il terrore di Dio, che è il segreto della religione. Ecco le due leggi che ci dominano. Credo che se ognuno potesse vivere pienamente la sua vita, dar forma ad ogni sentimento, realtà ad ogni sogno, il mondo accoglierebbe un così puro flusso di gioia e dimenticherebbe tutte le malattie del medievalismo per tornare all'ideale ellenico. Dorian Gray è stordito. Lord Henry sta dicendo cose che nessuno gli ha mai detto. Nessuno ha mai parlato così in sua presenza. Lo ha mai considerato più che un giovanotto bello da ammirare. I pensieri che hanno affollato la sua mente fino a quell'istante sono stati sempre molto vuoti, non hanno mai superato la superficie. Lui è abituato a riflettere poco. E pensate, non c'erano ancora i social. Comunque si è allenato a non pensare, ma adesso Lord Henry sta parlando alla sua anima, gli sta dicendo quello che la sua anima vuole realmente sentire. Dorian Gray sta ascoltando Lord Henry Wotton e le parole di quest'ultimo lo colpiscono con una forza mai provata. Forse la musica lo ha colpito così, lo ha anche sconvolto, ma la musica non è articolata, è da sola, crea un turbine di sensazioni, ma non crea un mondo nuovo. Le parole che sente, così chiare, così crudeli, danno forma palpabile a qualcosa che era solo delineato vagamente nella sua mente. Parole semplici che cominciano a dare un senso alla sua vita, che fino a quel momento era assolutamente fatua, insensata. Lord Henry prosegue: quello che sta per dire trasformerà per sempre l'esistenza di Dorian, avrà su di lui un'influenza destinata ai più grandi e terribili sconvolgimenti. Noi siamo puniti dalle inibizioni che ci imponiamo. Ogni impulso che cerchiamo di soffocare fermenta nella nostra anima e ci intossica. Il corpo pecca, ma una volta che ha peccato ha superato la sua colpa, perché l'azione è una forma di purificazione. Nulla più rimane se non il ricordo di un piacere o la volontà di un rimpianto. L'unico modo per liberarsi di una tentazione è di abbandonarvisi. Resistete e la vostra anima si ammalerà di nostalgia per le cose che si è vietata, di desiderio per ciò che le sue mostruose leggi hanno reso mostruoso e fuori legge. Beh, sono parole sconvolgenti per un diciassettenne educato in una scuola severa secondo i rigidi canoni della religione e della morale vittoriana. Immaginate che mondo gli si prefiguri davanti. Qualcuno gli ha appena detto in maniera molto convincente che deve cedere alle tentazioni, anche a quelle più inconfessabili. Forse Lord Henry parla anche pro domo sua, però il risultato è questo: la paura che il corpo e lo spirito rimangano intossicati dall'ignavia d'esplorativa, non so come dire. Qualcuno a cui lui sente di dover dare il massimo credito gli sta legittimando tutte quelle pulsioni che lui aveva sentito come illegittime, malvagie, nefaste. Dorian è sconvolto da questo ribaltamento etico. Per 10 minuti rimasi lì, immobile, con le labbra socchiuse e gli occhi in fiamme. Avevo l'intima consapevolezza che influenze assolutamente nuove operassero in me, e tuttavia mi sembrava che sorgessero da me stesso. Le poche parole che l'amico di Basil mi aveva detto, espresse certo a caso, polemicamente paradossali, avevano toccato qualche corda segreta mai sfiorata prima, ma che sentivo ora vibrare e sussultare con strani fremiti. E forse è proprio vero quello che sostiene Lord Henry Wotton, cioè Dorian Gray non ha mai pensato, ha sempre accettato passivamente quello che gli veniva detto, non aveva mai avuto atteggiamenti critici nei confronti della vita, ha fatto quello che la società gli imponeva credendo di essere contento, ma evidentemente non era così. Adesso queste parole aprono una voragine nella sua mente, lo riportano indietro alla sua infanzia, gli fanno riconsiderare la breve esistenza che ha alle spalle, e soprattutto lo fanno guardare con occhi diversi quello che ha davanti. Tutto cambia. Per Dorian Gray affacciarsi alla vita non vorrà dire solamente godere delle sue meraviglie, ma anche spingersi oltre in un baratro destinato a travolgerlo drammaticamente. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Dorian Gray, un giovane dandy inglese, aristocratico, ricchissimo, dalla bellezza fuori dal comune, con un fascino straordinario. Vive a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Nello studio del pittore Basil Hallward, suo amico che gli sta facendo un ritratto, Dorian incontra Lord Henry Wotton, un uomo che lo colpisce enormemente per un senso estetico, una cultura decadente e anche un atteggiamento provocatorio che lo tocca profondamente. Dorian è conquistato e sconvolto soprattutto quando Lord Henry insinua nella sua giovane e inesperta mente di 17enne un concetto contrario alle regole rigide e moraliste dell'Inghilterra vittoriana, e il concetto è che le tentazioni vanno assecondate, il peccato ha un potere taumaturgico. Dorian era stato educato in maniera diversa e le regole della società ottocentesca così rigida, la società vittoriana, cominciano a andargli strette. La sua voglia di un comportamento anticonformista viene legittimata da Lord Henry, viene spinto a godere dei doni della vita, a non lasciarsi scappare nessuna delle occasioni che gli si parano davanti. Questa vicenda ha ispirato moltissimi film. Nel più recente, che si chiama Dorian Gray del 2009 di Oliver Parker con Colin Firth, c'è una scena emblematica, quella in cui Lord Henry spiega le sue teorie a Dorian. Non c'è infamia nel piacere, caro Gray. L'uomo vuole essere felice, ma la società lo vuole buono. E quando è buono, l'uomo è raramente felice, mentre quando è felice è sempre buono. E tu vuoi essere buono, vero Gray? Ma anche felice. Non hanno un prezzo queste cose. No, la ragazza è a buon mercato. Quello che volevo dire è l'effetto che avrà su... Oh, bello. Sulla... Su cosa? Beh, sull'anima, direi. Sull'anima, dici? Questa è la mia chiesa. Con questo alcol io qui inchiodo la mia anima all'altare di Satana. E successivamente però il discorso di Lord Henry si fa ancora più profondo, va a toccare Dorian Gray esattamente nel cuore del problema. La giovinezza è l'unica cosa degna di essere posseduta, caro Gray. Un giorno, quando sarete vecchio, rugoso e brutto, quando il meditare vi avrà scavato nella fronte i suoi sulchi, le passioni avranno marcato le vostre labbra col loro orribile fuoco, tutto vi apparirà terribile. Sì, signor Gray, gli dèi sono stati benigni con voi, ma gli dèi non indugiano a riprendersi quello che danno. Avete solo pochi anni per vivere pienamente. Quando la gioventù vi abbandonerà, la bellezza si affretterà a seguirla e allora vi accorgerete ad un tratto che non vi sono più trionfi per voi. Ogni giorno vi avvicina a qualcosa di terribile. Godete la giovinezza finché la possedete. Non sprecate l'oro dei vostri giorni. Cercate sensazioni sempre nuove. Non abbiate paura di nulla. Eh sì, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia, scriveva Lorenzo De Medici. Quando si possiede una cosa, lo sappiamo, non ci si fa molto caso, la si dà per scontata, e quindi c'è una sorpresa nella reazione di Dorian Gray alle parole di Lord Henry, perché lui non ha pensato che poi tutto quello che ha inesorabilmente finirà per svanire. È il colpo d'ala mentale che gli fa capire tutto. Dorian si affaccia alla vita e c'è una nuova nascita per lui, prende coscienza di chi è, della sua fortuna, di quello che possiede, e capisce però anche il rovescio della medaglia: può perdere tutto e inevitabilmente perderà tutto, una perdita inevitabile come lo scorrere del tempo. A quel punto il meraviglioso ritratto di Basil Hallward diventa una provocazione, perché potrà conservare quello che lui è destinato a perdere. L'arte vince sulla vita, sì, perché la vita è corruttibile, ha un suo inizio e una sua fine. L'arte è eterna, ferma l'attimo nel suo istante più bello. E il ritratto di Dorian Gray, quello che il pittore termina con soddisfazione, è un'opera favolosa, ritrae la pura bellezza nel suo massimo splendore, ne ferma lo sfiorire. Dorian ne è sconvolto. Che cosa triste! Io diverrò vecchio, brutto, ignobile, e questa pittura rimarrà sempre giovane, giovane qual è in questa giornata di giugno. Oh, se potesse avvenire il contrario, se potessi io restare sempre giovane e invecchiasse invece la pittura. E si fa strada un pensiero terribile nella testa di Dorian Gray, impronunciabile, ma perfettamente in linea con quello che gli aveva appena detto Lord Henry: godere della vita, viverla, non preoccuparsi del domani, dare tutto per avere tutto. Insomma, Dorian Gray arriva alla formulazione di un'idea terrificante, la più drammatica, la più scellerata di tutte, quella dalla quale non si torna più indietro. È la cosa più bella che hai fatto. Sarete sulla bocca di tutti, tu e lui. Di qualcosa, ragazzo, se no lo offendi. Sono veramente così. È proprio realistico. È meglio della realtà. Lui resterà così. Tu invece, Gray, cambierai aspetto. Col tempo, madre natura cederà il passo a padre Basil. Alcune cose sono più preziose perché non durano. Sciocchezze. Diventiamo vecchi e avvizziti perché gli dei sono crudeli e odiosi. Allora forse dovrei inchiodare la mia anima all'altare di Satana. Per restare come sei? Ottimo scambio. Che ne dite di un altro gin, invece? Tutto quell'abracadabra, infiniti sortilegi, libri rilegati con pelle di neonato, pentagrammi di fuoco, bevute di sangue di vergini. Dorian non si venderebbe mai l'anima. Vero, Dorian? Lo faresti? Sì. Vendere l'anima al diavolo in cambio di qualcosa è una delle invenzioni letterarie più trasgressive, più sconvolgenti, ma anche più interessanti. Affonda le sue radici nella storia stessa dell'uomo e trova nel corso dei secoli espressioni di grande fascino, il Faust di Goethe, per esempio. Dorian Gray vuole restare eternamente giovane e bello, declama a voce alta il suo desiderio, che sia la sua immagine nel quadro a portare i segni del trascorrere del tempo, e la sua anima sarà di Satana. Intanto Dorian si innamora di un'attrice di teatro di basso rango, Sybil Vane, una ragazza molto bella che chiama Dorian il mio principe gentile, che lui apprezza perché la giudica una brava interprete. Una sera in cui va a teatro a vederla recitare il ruolo di Giulietta in compagnia di Basil e di Lord Henry, la giovane si rivela una pessima attrice perché da quando si è innamorata di lui non riesce più a fingere amore per nessun altro. Dorian reagisce con rabbia alla scaccia perché lui la amava per le sue doti artistiche, ora non la vuole più, ritorna a casa e fa una scoperta sconvolgente sul volto del ritratto. È comparsa una specie di espressione di crudeltà, e quando lo raggiunge la notizia che la giovane disperata si è tolta la vita, il quadro mostra tutta la sofferenza derivata da quella notizia terribile, mentre Dorian non sente nulla. Il patto col diavolo è stato suggellato e d'ora in poi potrà dedicare la propria vita alla ricerca del piacere, sfruttando senza limiti il dono dell'eterna giovinezza, incurante delle regole della morale e dei giudizi della società. E nei 20 anni successivi Dorian Gray non si fa mancare niente, perché un altro dei vantaggi di avere il ritratto è che non ti peggiora la salute. Tu puoi bere, il fegato rimane integro, fumi, puoi fare qualsiasi cosa e il corpo non si deteriora, perché l'uomo è una macchina perfetta fatta con materiali deteriorabili. E quindi Dorian esagera, divide la sua vita tra le taverne del porto, i bordelli più malfamati della città senza paura di malattie venere, i salotti della buona società londinese, di cui è il punto di riferimento nonostante la condotta scandalosa e le voci che circolano su di lui, che vengono alimentate da un aspetto sempre giovane e bello. E poi sapete, insomma, alle donne i maledetti piacciono, e intanto lui scende nella lussuria, nel vizio, nelle droghe, nell'alcol, e il ritratto invecchia, degenera, accumula su di sé il peso degli anni, della dissoluzione, e intanto Dorian rimane così come amato da tutti. Si salva la vita, il fratello di Sybil Vane, Jim, che ha giurato di vendicare la sorella, lo incontra, sta per assassinarlo. Ma Dorian gli mostra il suo volto di 17enne. Jim sta cercando un uomo di circa 40 anni e quindi se ne va perché non può essere lui. Ma insomma, la situazione è destinata a precipitare, tutto termina là dove era iniziato, con Basil e il terrificante ritratto. Il pittore non vede Dorian da tempo, va a fargli visita una notte prima di trasferirsi a Parigi, gli riferisce tutte le dicerie sul suo conto, lo esorta a cambiare vita, gli chiede di dargli spiegazione del suo aspetto, e allora Dorian lo porta nella soffitta dove ha nascosto agli sguardi indiscreti il suo ritratto, lo mostra al pittore inorridito e poi, preso da odio nei suoi confronti, lo uccide con un coltello. La sua vita riprende apparentemente come prima, c'è solo un ritratto che ha anche i segni del sangue oltre che i segni del tempo, dell'usura e degli stravizi, ma Dorian Gray non è più lo stesso, perché il rimorso lo attanaglia, annebbia i suoi ricordi nell'oppio ma non ci riesce, arriva a confessare tutto a Lord Henry, ma lui e Henry, con il suo solito atteggiamento cinico e distaccato, esasperato anche dall'età che nel caso di Lord Henry sta avanzando, non gli crede. Alla fine non c'è altro rimedio per lui che tentare di ritrovare non la bellezza, ma la purezza della sua gioventù. Quel delitto lo avrebbe perseguitato per tutta la vita? Avrebbe dovuto confessare? Mai. V'era una sola prova contro di lui: il ritratto stesso. Lo avrebbe distrutto. Si guardò attorno e vide il coltello col quale aveva assassinato Basil. Come aveva ucciso il pittore, avrebbe ucciso l'opera di lui. Avrebbe eliminato così anche il passato, e quella morte lo avrebbe reso libero. Senza il suo ripugnante rimprovero, si sarebbe sentito innocente. Afferrò il coltello e colpì la tela. Dorian Gray ha compiuto il suo destino, ha creduto di porre rimedio, ma ha scordato di fare i conti col diavolo e col suo patto. Quando i servi forzano l'ingresso della stanza, attirati da un urlo straziante, trovano appeso al muro lo splendido ritratto di un giovane Dorian Gray nel pieno della sua raggiante giovinezza, mentre a terra, deformato dalle rughe e dalla dissolutezza, c'è il cadavere di un vecchio ripugnante con un pugnale conficcato nel cuore. Verrà identificato come Dorian Gray solo grazie ai bellissimi anelli che porta alle dita. Abbiamo raccontato di centinaia di colpi d'ala e oggi abbiamo raccontato del colpo d'ala impossibile, il colpo d'ala meraviglioso, ma che nessuno di noi potrà mai compiere, quello di mantenere inalterate le sue fattezze con una mente da adulto e un corpo da giovane. E purtroppo non c'è nulla da fare. Ognuno di noi può cadere, può dare colpi d'ala, può rimanere immortale nelle sue opere, ma non nel suo corpo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, oppure sul nostro sito radio24.it, oppure venite a cercarmi sui nostri social. Insomma, se volete mi potete trovare. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.